Storie italiane. Biancaneve e Rosa Rossa. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio di una piccola città, viveva una donna e le sue due figlie. I loro nomi erano Biancaneve e Rosa Rossa. Biancaneve era una persona timida e gentile, e Rosa Rossa era energica e giocosa, sempre alla ricerca della sua prossima marachella. Attenta, Rosa, non così in fretta. Tranquilla, mamma, starò bene. Te l'avevamo detto. Biancaneve e Rosa Rossa ogni giorno aiutavano la mamma con le faccende domestiche. Alla fine della giornata la loro mamma le raccontava delle fiabe. Vivevano una vita normale, con la loro routine, finché all'inizio dell'inverno le cose si fecero più interessanti. Una notte, mentre la signora Bianca stava leggendo una storia alle sue figlie, sentirono bussare alla porta. Tutte e tre furono sorprese. Guardarono la porta nervosamente, preoccupate di chi fosse dall'altra parte. Non preoccupatevi, mie care, deve essere solo un viaggiatore che ha bisogno di indicazioni. Vado a controllare. No, madre, lo farò io. Oh mio Dio, cos'è? Oh mio Dio, cos'è? Per favore, smettetela di urlare. Sono solo un orso. Davvero, per favore. Mi fanno male le orecchie. Ho solo bisogno di aiuto. Ho freddo e fame. Tutti smisero di urlare mentre l'orso parlava. Non era come gli altri orsi. La sua voce era gentile. Ci dispiace. Prego, entra. Le tre lo guardarono e lo lasciarono entrare. Sei coperto di neve, lascia che ti aiuti. Oh no, per favore fermati. Oh no, questo è terribile. No, no. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Va bene, è abbastanza per voi due. Lasciate che beva qualcosa di caldo. Portagli una coperta, Rosa. Quella notte nacque un'amicizia. Un'amicizia che durò per tutto l'inverno. Ogni giorno l'orso andava a casa loro portando doni. Condividevano il calore del camino, leggendo storie all'orso. Entrambe amavano la sua compagnia. Poi, col passare del tempo, l'inverno giunse alla fine. Era tempo che lui se ne andasse. Se non fosse per l'incantesimo, non vi avrei incontrate. Cosa intendi? Quale incantesimo? Non devi andare, puoi stare con noi. Devo andare. Grazie per tutto ciò che avete fatto, ma ora che l'inverno è finito, devo andare. E poi se ne andò, lasciando dietro di sé le sue amiche che tanto amava. Pochi giorni dopo, Biancaneve e Rosa Rossa camminavano nella foresta raccogliendo frutta e legna. All'improvviso sentirono delle strane urla venire da non molto lontano. Seguirono i suoni e videro qualcosa di strano. Un nano aveva una lunga barba bloccata sotto un albero caduto e saltava su e giù urlando di rabbia. Oh, stupida barba! Dannato albero! Smettetela di fissarmi voi due! Venite subito qui ad aiutarmi! Lasciarono cadere le loro cose. Insieme cercarono di sollevare l'albero, tirando e spingendo il più possibile. Ci provarono con tutte le loro forze. Alla fine rinunciarono entrambe. All'improvviso Rosa Rossa ebbe un'idea. Il nano continuava a saltare su e giù finché non vide ciò che era nelle mani di Rosa Rossa. No, aspetta, ehi, cosa pensi di fare? Smettila, no! La mia preziosa barba! Le ragazze erano divertite dal comportamento del nano. Lo avevano aiutato e tuttavia era arrabbiato con loro. Continuò a urlare contro di loro mentre si allontanava nella foresta, senza nemmeno ringraziarle per il loro aiuto. Il giorno dopo, le ragazze decisero di fare una passeggiata vicino al fiume. E ancora una volta udirono i lamenti e le piccole urla del nano che avevano incontrato. Le sorelle, ancora una volta, corsero per andare ad aiutarlo. Questa volta la sua barba era bloccata nella bocca di un grosso pesce. Oh, ah, oh, ah, sciocco di un pesciolino, come osi? Ora in cosa ti sei cacciato? Non vedi che quel pesce spaventoso vuole trascinarmi in acqua? Aiutami! Biancaneve e Rosarossa decisero di aiutarlo di nuovo. Non possiamo farcela. Annegheremo tutti e tre nell'acqua. Non ce la faccio più. Adesso ti taglio la barba. Perché? Perché? Perché? Stai lontana dalla mia barba. Come farò a mostrare la mia faccia ai miei amici? Stupide bambine! Entrambe le sorelle erano divertite e iniziarono a ridere. Ma poi sentirono... Su una grande roccia dietro di loro, un giovane giaceva per terra, con un livido sulla sua fronte. Ehi, chi sei? Cosa stai facendo qui? Sono il principe Adam. Sto cercando mio fratello Joseph. È scomparso dall'inverno. Oh, io sono Biancaneve e questa è mia sorella Rosarossa. Possiamo aiutarti a trovarlo? Era andato a fare una passeggiata nella foresta con un sacco di gioielli, ma lungo la strada è scomparso. Ho appena visto una creatura che trasportava una borsa simile di gioielli. Quando ho cercato di inseguirlo, mi ha fatto un incantesimo e non sono più riuscito a vedere dove stavo andando. Sono caduto e ho battuto la testa su questa roccia. Mi dispiace sentire questo. Possiamo aiutarti? Le ragazze promisero al principe di aiutarlo e lui si sentì confortato. Ma in quel momento tutti e tre sentirono un forte ruggito. Veniva dal profondo del bosco dietro di loro. Aiuto! Tutti e tre salirono sul cavallo e galopparono in direzione delle urla. Videro il nano correre fuori da una grotta mentre veniva inseguito dall'orso. Lasciami stare! Aiuto! Oh, è il nostro amico, l'orso! Perché corre dietro al nano? Il principe strasse la spada e iniziò a camminare verso l'orso e il nano. Voi ragazze, aspettate qui. Questa è la creatura che ho visto con la borsa dei gioielli di mio fratello. Deve pagare per quello che ha fatto. Stai attento. Lasciami in pace, prendilo, prendi tutto il tesoro che vuoi. Guarda in cosa mi ha trasformato il tuo incantesimo, non voglio soltanto gioielli. Lascia questo a me, amico mio, il nano è mio. Basta con questa follia, ora è il momento di mostrare la mia vera forma. Pensi di potermi sconfiggere? Pagherai per questo adesso. Oh, santo cielo! Veloce, Rosa, le mie spade! Lanciami le mie spade! E la sua barba! Taglia la sua barba! E dove tutto il suo potere era chiuso? Fallo ora! Mentre il nano aveva preso la sua forma mostruosa, Biancaneve corse da lui con le sue forbici. E Rosarossa corse verso la spada. Ragazza sciocca, pensi che ti risparmierò? No! Neve! Principe, qui! No! Il principe Adam gettò la spada con precisione e tagliò completamente la barba del nano, tirandola via dalla sua faccia. La barba cadde a terra e lui cominciò a rimpicciolirsi. All'improvviso l'orso si trasformò in un bel principe. Principe Joseph, il fratello del principe Adam. Il principe Adam guardò suo fratello e poi corse da lui per dargli un lungo abbraccio. Oh! Oh! Mi sei mancato, fratello. È passato tanto tempo. Mi sei mancato anche tu, fratello. Il nano malefico ha rubato i miei gioielli e mi ha fatto un incantesimo. E non potrò mai ringraziare abbastanza Neve e Rossa per tutto quello che hanno fatto per me. Il principe Joseph raccontò della gentilezza che le sorelle gli avevano dimostrato e così fece anche il principe Adam. Entrambi si erano innamorati delle sorelle e le sorelle a loro volta si erano innamorate dei principi. In un matrimonio, il più grande del regno, Biancaneve sposò il principe Adam e Rosarossa sposò il principe Joseph. Biancaneve e Rosarossa si erano fatte inizialmente spaventare dall'aspetto. Poi guardarono oltre l'aspetto dell'orso. Questo ci fa capire che la vera natura di qualcuno si trova nel suo cuore e che entrambe, la gentilezza e l'amore, possono rompere qualsiasi incantesimo che chiunque possa lanciare su di voi.